Mi ricevi? Ma dove sei? Ti sento. Sono dentro di te. Che cosa? Sono a casa, Pietolone. Stavolta siamo in smart working. Cosa stai dicendo? Mio cugino è un contatto di contatto. Devo stare a casa. Che cosa? No, vabbè, dai, lo studio era occupato. Tu dal soppalco puoi gestire tutto. Io? Devi portare a casa la puntata. Non posso. Non ti preoccupare, io ti seguo da qua. Oh, se l'ha fatto la Gruber, lo possiamo fare pure noi. Tu in studio e io a casa. Non funzionerà. Oh, fai l'apertura al volo. Ma come? Nessuno ti noterà. Cominciamo bene. E durante la sigla ci colleghiamo. Cosa devo fare? Pia sto microfono. Ok. Schiaccia il pulsante e manda la sigla. Oh, di qualcosa. Cosa dico? Prova. Bentornati a 100 Celle Avengers. Andrà tutto bene. No, ma proprio quella. Chiedo scusa. Io sono Iron Man. E sono solo. Ah. Sigla. Sulla gente, saperne dove e quanti invadono altri mondi, a corsi da galassie, balzano, conquistano in onda sugli schermi danni. Touch, don't touch, rimpiccioli fa allarmi, ma il tempo è differente, agganciamento d'armi ancora più forti, Defender, Infinity Avenger, rilanciano l'attacco, con un raggio corto c'è più impatto, visioni, dirigono i più forti, nella salvezza delle gemme tuoni, tuoni e suoni di altri suoni, Park e Strange, dirigono a Titano, al fianco Stark tutto sembra volgere in azione, Capitano Hulk e Thor richiudono i portali, ripristinando combattendo armi nucleari, riportano la pace, passando tra incantesimi, scettri, mostri disumani, la terra non precipita ma è salva, energia per questo ricomincia, vince, ritorna forte con i valorosi Avengers. Grande eroe di prima, Avengers. Gedi che non vedi perché non sono più quelli Avengers. Che senti veramente. Avengers. Non sono nella paura della gente. Avengers. Certo c'è l'Avengers, la musica si difende. Oggi non ce la faccio più, oggi non voglio più pensare proprio a niente. Quello che si poteva adesso non mi riesce. Ti sento qui presente. Sento notifiche, vedo lucette accese ancora adesso che ti voglio accanto. Mentre guardo, mentre guardo. We'll be right back. Buonasera, benvenuto Iron Man in collegamento dalla scuola di musica. Buonasera. Buonasera, benvenuta Alexa, responsabile della domotica di casa. Buonasera. Buonasera, benvenuta Lagata, sottosegretaria 100 Celle Avengers. Buonasera, benvenuto a Papone. Dove la gatta? Regioni colorate, ma la scuola di musica di che colore è? Dopo la pubblicità. Spazi musicali autogestiti presenta Scuola di musica forte. Corsi individuali di chitarra, canto, basso, pianoforte, batteria, tromba. Scuola di musica forte. Lezioni di canto con Serena. Bene, adesso magari far lo swing, che dici? What if I say Anna like the other? Scuola di musica forte, lezioni di piano con Daniel. Ok, sì, occhio al tempo, di più, vai, vai, entra, vai, vai, dai, go, sì, sì, dai, mo sì. Scuola di musica forte, la musica resiste. Per informazioni www.forteprenestino.net. Attenzione, le lezioni online potrebbero dare assuefazioni e aumentare il rischio di rancore verso il tuo device, batterie incluse. Cos'è questo? Non ti piace... Mi stai di nuovo tendendo in giro. Non ti piace, Lilly? Iron Pagliaro. Non mi piace. Dici troppo? Anche meno? Cos'è questa buffonata? Benvenuto a questa nona puntata di 100 Celle Avengers. Non mi fido di te, mi stai prendendo in giro. Lo so che non siamo in diretta. Lo so che ti ho ingannato. Non è questo. Ma non devi perdere la fiducia, amico mio. Ah no? Io ho finalmente capito. Cosa? Che noi siamo all'interno di qualcosa di più grande dei nostri desideri. Più grande dei nostri tentativi. Non capisco. Cosa stai dicendo? Qualcosa che ci contiene. Noi siamo nel meccanismo, capisci? Non capisco. Noi siamo il non risolto. Il meccanismo senza fine. Vedi, ho capito che se noi andassimo in diretta, cosa succederebbe? Ci sentiremmo spaesati. Non risolto. Ricordi quel senso di angoscia chiudendo il settimo libro di Harry Potter? Mai letto. E mo che faccio? Datemi un motivo per andare avanti. Ecco, io non voglio finire così. Cosa stai dicendo? Ti ho messo questa base perché tu magari sei più giovane, quindi conosci questo di famoso meccanismo irrisolto. Questo nostro ostinato tentativo di andare in diretta non è altro che il nostro meccanismo. Non è la meta, è il viaggio. Finisce tutto. Capisco. Troppo? Meno? Mi pare come se non t'ho convinto. Smarriti. Senza punti di riferimento. Ma te ne potrei di tanti, solo che te sei un giovane, quindi sono partito dai più recenti. Chi, per esempio? Se noi andassimo in diretta, sarebbe come... che la piccola Pollon diventa una dea. Pollon. Il piccolo Boom Boom. Piccolo Boom Boom. Ti pare che la seconda puntata dei Boom Boom sbuca fuori la madre? Oh, dove stavi? Andiamo a casa, te stavo a cercare... Sarebbe come conoscere la mother di How I Met Your Mother alla nona puntata. E finisce tutto. How I Met Your Mother. Ma che vuoi, che le Charlie's Angels incontrano Charlie? Che la piccola Annette perdona Lucienne per quello che le ha fatto? Cosa le ha fatto? Che Dawson e Joy si baciano. Dawson e Joy. Che tre cuori in affitto accendono un mutuo. Cosa ne pensa, signor Rourke? Che papà gamba lunga. Cosa? Vabbè, hai capito. Chi è? Ah, sei tu, DR100. Mi ero dimenticato di presentarti, il nostro inviato alla scuola, che ci porta sempre notizie fresche. Che sta dicendo? Che sta dicendo? Dice che non abbiamo registrato contributi dalla scuola questa settimana. Non ci abbiamo niente? Vabbè, Niente. Cosa stai dicendo? Cioè, questa rubrica della Mesopotamia ha retto due puntate, già stiamo così, in sciopero. Scheda di memoria vuota. Tocca metterci il toppone. Mettiamo un pezzo intanto e ci pensiamo bene. Mi dispiace. Quindi non andremo mai in diretta. Guarda come deve finire oggi, eh? Che mi cadono. Dai, non fa così. Questa è Secchio, dei Pop X, su Radio Forte. Dal cielo mi cadono le palle, i pantaloni si sono rotti e non ho più il coraggio di guardarti in fondo agli occhi, perché ho paura del tuo amore, è troppo serio e razionale per me, che sono un froccio perso. Dal cielo mi cadono le palle, i pantaloni si sono rotti e non ho più il coraggio di guardarti in fondo agli occhi, perché ho paura del tuo amore, è troppo gonfio per scoppiare, per me che sono, per me che sono un froccio perso. E ricomincia a piangere come un secchio d'acqua, svuoti tutto nella maca, mi sorridi, sei una vacca che fa mu mu. Piangere come un secchio d'acqua, svuoti tutto nella maca e ricominci a piangere come un secchio d'acqua, svuoti tutto nella maca, mi sorridi, sei una vacca che fa mu. Guardarti in fondo agli occhi, perché ho paura del tuo amore, è troppo serio e razionale per me, che sono un froccio perso. Dal cielo mi cadono le palle, i pantaloni si sono rotti e non ho più il coraggio di guardarti in fondo agli occhi, perché ho paura del tuo amore, è troppo gonfio per scoppiare, per me che sono, per me che sono un froccio perso. E ricomincio a piangere come un secchio d'acqua, svuoto tutto nella maca, mi sorrido, sono una vacca che fa mu mu. Come un secchio d'acqua, svuoto tutto nella maca, come un secchio d'acqua, svuoto tutto nella maca, mi sorrido, sono una vacca che fa mu. Bene, e siamo sempre qui su Radio Forte, 100 Celle Avengers. Andiamo avanti, caro Iron Man, con la rubrica degli scartati. Sigla. Scusa, che manda a me? Scartato. Cosa? Gli scartati. Abbiamo lasciato fuori degli studenti. Chi sono gli scartati? Ma noi non lasciamo indietro nessuno. Ma no, no, no, non fraintendete. La rubrica degli scartati è la rubrica dei pezzi che non faremo mai. Quali pezzi? Proposte degli allievi per i maestri. Che i maestri hanno bocciato. E perché? Per infattibilità. Proposte. Dopo attento studio sulla fattibilità, hanno bocciato. bocciati. Ti pensavi che eravamo così cattivi in Mesopotamia? Ti pensavi che noi scartavamo gli allievi? Mica è Sparta, piuttosto se scartiamo noi. Studi di fattibilità. E di questa lunga hit parade di pezzi scartati, cari Devices, oggi riportiamo le prime tre posizioni. Perché? Solo tre? Ebbene sì, una short parade. Al terzo posto abbiamo... Grande classico, grande grande classico, in versione big band scartato. Che Apollo ci fulmini se se rimettiamo un'altra volta a fare gli archi con la tastiera. E quindi? Ma in seconda posizione, stabile questa settimana, abbiamo... Vorrei suonare come gli Aneat, il gruppo italiano, ma i pezzi sono molto difficili di questo gruppo italiano. Non sono capace di suonare... Sì, scartato. Questa mi piaceva. Canzoni degli Area. Allora sai che faccio? Scrivo una canzone che assomiglia a una canzone degli Area. Solo. Ma vince la hit parade degli scartati Daddy Frey. Daddy Frey. Perché? Vince il premio di non fattibile in quanto condensato di difficoltà canora. Canora. Ritmica. Ritmica. E di sintesi digitale. Sintesi digitale. Come quell'anno che facemmo Bruno Mars. L'anno scorso. Ah, era l'anno scorso. Think About Things. Daddy Frey. Tanto comunque se passate al pub del forte, la sentite. La stanno mettendo anche ora. Oh, I know. I find it hard to see how you feel about me. Cause I don't understand you. Oh, you are yet to learn how to speak. When we first met, I will never forget. Cause even though I didn't know you yet, we were bound together then and forever. And I could never let you go. Think About Things. Daddy Frey. Daddy Frey, i pezzi che non sentirete mai fatti da noi. Ma reggiti forte, Iron Man, perché sta arrivando la didattica. Cosa? No. Questa volta è didattica a distanza. No. Abbiamo un discorso da continuare. Te lo sei ricordato. È diventata una sottorubrica. Cosa? Sigla e controsigla. Sigla e controsigla. Signore, non allaccia la cintura? Me lo sbatto la cintura! Velocità smodata! Via! So I'm just scared for you. sei pazzo. Bella, bella, la modalità matrioska mi piace, te la ricordi? Matrioska. E apriamo un altro file. Si parlava della velocità, ricordi? Velocità. Ah. Abbiamo cominciato la nostra panoramica con perepe, perepe, perepe, a batteria. Batteria. Per poi proseguire nel basso. Basso. Ubriacarci di assoli di chitarra. Chitarra. È tempo di andare avanti, Devices. Dove? Qui arriviamo agli strumenti nostri. Il pianoforte. La voce, Iron Man, la voce. La voce. Oh. Mina. Voce. Sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava. Faccio così tutto con la voce, sempre un signolo, sì. Forse, forse qualche nota non è proprio giusta, giusta, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, stanno può sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Può essere una cosa che non ha nessun valore. Se vogliamo ricordare che come me nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, e vi ricordate quelle note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Su, su, su, come due note che volano nel cielo. Stando senza respirare tutto il tempo che io tengo questo beat. Brava, brava, come sono brava, brava. Sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava. Faccio così tutto con la voce, sempre un usignolo, sì. Ma però mi sentirei un poco più tranquilla se potessi questa sera farmi dire che sono brava, sì. Ma che a dirlo siate voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi. Non lo sentite questo povero mio cuore che fa boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Ascoltando radio forte, tanto forte al punto che è 100 celle Avengers. Dai, ce l'abbiamo fatta, Iron Man. Dai, non fa così. Su, su. Basta. Siamo arrivati al canto, vocione. Non ce la faccio più. Voce e fiati. Ora basta. I monofonici te l'ho messo insieme. Il canto. Quindi con la medesima chiave di lettura, che se è stata stupida prima, adesso è veramente all'apice, andiamo con l'esempio punk. Itch Up, Bad Brains. Bad Brains. Gruppo particolare Iron Man, già di loro, a parte per questa maniera di torturare gli strumenti, ma poi in effetti quattro rastamanni a Washington DC che suonano punk, negli anni 80 ancora non si era visto. E mentre a Washington c'era i Char, in Italia c'era... G.G. Telesforo. G.G. Telesforo. Ma quale G.G. Telesforo? G.G. Telesforo. Si sente male. Perché fa così? Un esempio di scat italiano. Tanto non dice niente, quindi poteva essere pure americano. Per i fiati, caro il mio, ti vado a scomodare una vecchia polemica che io in realtà non mi so vissuto, ma che poi ho appreso esisteva. Ma è meglio Phil Collins o Peter Gabriel? Perché? Perché io conobbi prima Phil Collins solista. E poi appresi che esistevano i Genesis. Altri nemici. Lui era il batterista cantante. Però intanto nel suo disco solista trovi questo. Che io lo userei come sigletta finale. Che dici? Sigla. Stai ascoltando Radio Forte e questo è 100 Celle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta mai. 100 Celle Avengers, la musica si difende. Se va mona ioio. E su questa famosa melodia di Vangelis, meglio conosciuta come A Barilla, noi, sempre su Radio Forte, caro Iron Man, arriviamo a trattare lo strumento degli strumenti. Quale? Il pianone. Sono esausto. Qua. Ma io lo conosco. Qua i nodi vengono al pettine, eh? Quali nodi? Uno strumento capace di rompere i coglioni a destra e a sinistra, in alto e in basso, alle chitarre e ai bassi, ai flauti e alla batteria, ovunque. Come te. 88 tasti di poesia, 88. E 10 dita. Non capisco. Che fai? Cioè, non so se ti rendi conto che con 10 dita, col flauto, strumento monofonico, riesco a fare una nota sola. Sul piano c'hai una grossa responsabilità. Grandi poteri, grandi responsabilità. Sia ritmica che soprattutto solista. Solista. Fenomenali poteri cosmici! E minuscolo spazio vitale! Quindi adesso conosci lo schema narrativo. Quale schema? Chi ti vado a citare io adesso? Oh, chi sono i pianisti di riferimento della tua adolescenza? Le mie pietre miliari? Gente che si autospingeva in copertina col pianoforte e il cappello? Antonello! Quelli comunque sono accompagnatori, perché il meglio di sé ce l'avevano da dare con la voce. Sono dei piano man. Ma se ti devo proprio far capire quanto ci si può spingere oltre, dobbiamo rovistare nell'archivio segreto. Vai Alexa, apri traccia nascosta. Riproduco da archivio segreto. Abbiamo un archivio segreto. Questo mo non ti posso dire dove e come, se no mi licenziano. Michel Camilo. We'll be right back. quattro ragazzi su Radio Forte e queste 100 c'è la Avengers. Bene, non vi sentite meglio? No. Come quando ti sei anticipato i compiti? Io non vado a scuola. Oh, mo abbiamo tutto lo spazio mentale. Per cosa? Per la prossima rubrica. Un'altra rubrica. La matrioska prevede la rubrica dei solisti. Un'altra sigla. Sigla. Io ci sarò con tutto il mio entusiasmo. Un'altra storia da vivere c'è. Capito perché Piero Pelù? Lui non è che uno degli esempi di artista che lascia la band per una carriera da solista, privilegiando coloro che poi sono stati sconsigliati di farlo. Gente che glielo chiedeva in ginocchio di tornare nella band e loro niente. E usiamo Pierino per fare da sottofondo a questa nostra nuova rubrica che tratta appunto di questo mondo parallelo, quello dei solisti della scuola di musica. Non capisco. Iron Man, abbiamo sempre considerato solo la musica d'insieme. Musica d'insieme, la Mesopotamia. Ma la scuola di musica consta anche di corsi di singolo strumento. E cosa fanno i singoli allievi del singolo corso di strumento? Cosa fanno? Preparano un repertorio a parte. A parte. Cioè glissano un po' la possibilità di avere una band sotto e si fanno accompagnare dai maestri. Quindi quando ci troviamo al saggio, il saggio di fine anno, quando la classe di musica d'insieme arriva al culmine della preparazione del repertorio, tutti sudati, si presentano costoro, costoro che dicono: io devo fare il mio brano accompagnato dal maestro. Capito? Ma ti piace vincere facile. Ma sono anche loro parte dell'ingranaggio. E chi ce ne può parlare meglio? Io, devo farlo io. No, te no. Parli di me? Stavolta abbiamo un ospite. Un ospite? Sta arrivando lì Iron Man. Cosa? Mi raccomando, non famo figure, eh. Ma io? Nell'attesa a bomba sull'argomento la nostra Alexa ci manda una marcorda a te. Questa è Julie. Centocelle a marcorda. Riproduco da saggio 2019. Sitting in the morning sun, I'll be sitting till the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed to the Frisco Bay, 'cause I had nothing to live for. It looked like nothing's gonna come my way, so I'm just sitting on the dock of the bay, watching a tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. It looks like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here, resting my bones, then this loneliness won't leave me alone. It's 2,000 miles I roam just to make this dock my home. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching a tide roll away. I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change, but everything still remains the same. I can do what 10 people tell me to do, so I guess I remain the same. Sitting here resting my bones, and it's low. Bene, quindi siamo tornati qui su Radio Forte, caro Iron Man, è arrivato il momento, te l'avevo detto. Io sono qui, ma tu sei lì e la devi ospitare. È lei, è la temuta, amata e temuta, maestra di canto Serena Locurzio. Posso dirlo, Curzio? Ladies and gentlemen, grazie, caro pubblico, caro privato. Bene, cosa? Non so nemmeno io che ci sto a fa qua, però mi sento a mio agio, mi sento molto a mio agio. Allora, caro Iron Man, come va? Tutto bene? Ciao, maestra. Iron Man, te la ricordi? No. Ti maltrattava sul palco, non te lo ricordi? Ti sei scordato tutto. Sei un po' arrugginito, con sta pioggia secondo me te sei proprio arrugginito, mamma mia. Cioè, io una revisione me la farei, ora costo 2021, capisco, è andato benissimo, però una piccola revisioncina, piccolina, alla tua memoria interna. Ora basta. Porta rispetto, Iron Man, che non so io, questa è una maestra vera, Chiedo scusa. Qui nessun allievo verrà punito o maltrattato o utilizzato per a scopo di lucro. In nessun modo. Abbiamo appena finito di parlare bene dei solisti, maestra, ma penso che a tessere le lodi di costoro, di questa categoria, non poteva esserci migliore scelta che un ospite magistrale, posso usare questo termine. E quindi, maestra, come mai siamo qui? Per parlare di cosa? Come sono sopravvissuti i solisti? I solisti sono sopravvissuti alla mancanza di tutta la sputazza che poteva arrivarci addosso durante gli esercizi di riscaldamento. I droplets, scusate, sputazza era il termine francese appositamente scelto, diciamo, francese di Palermo soprattutto, e sono riusciti tramite incredibili imprese e fatiche a oltrepassare questo muro dello schermo e arrivare direttamente alle vostre orecchie, quindi non solo attraverso lo schermo ma anche attraverso i vostri auricolaretti che terrete messi per questa fantastica puntata. E i solisti si sono impegnati, hanno sudato ogni giorno per affrontare ciascuna nota che poteva uscire stonata dalla loro bocca, ma non è successo. Quindi abbiamo aperto un soppalco musicale, se non sbaglio. Costoro vengono uno ad uno condotti nel tunnel, nella nicchia, nell'anfratto a registrare la propria song. Il soppalco. Sì, vengono di loro spontanea volontà anche. Assolutamente non costretti, non indotti. Non costretti, diciamo, di loro spontanea volontà, ma sanno che se non andranno non potranno ripresentarsi alle lezioni di canto, quindi... E quindi ne abbiamo uno, abbiamo la prima cavia, giusto? È la prossima allieva suadente, presente, e che ha calpestato il suolo di questo sacro luogo. È una cara presenza, così immensa, Vanessa, che si esibirà senza presenza in realtà, ma soltanto in audio, con un fantastico brano. Iron Man, ma tu insomma a livello musicale sei preparato un pochetto, mi sa? Lui mi ha studiato un po' di piano, mi accompagna ogni tanto ma prende le toppe, non sempre. Prende le toppe, mamma mia Iron Man, però, cioè con tutto il ferro che c'hai magari forse la batteria ti starebbe un po' meglio. Forse sì. Cosa ci canta Vanessa? Vanessa quest'oggi nel menù di oggi canterà per noi un allegrissimo, ridente brano. È un brano autografo di Vasco Rossi. Che lei, esatto, il brano è stato anche coverizzato, ricoperto da un'altra voce che è quella della signora Fiorella Mannoia. Certe volte Mannoia, proprio perché Mannoia l'abbiamo fatto cantare a Vanessa, Gianmaria, che quindi non c'è noia, non c'è noia, il brano è Sally. Su Radio Forte, Vanessa. Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Sally ha patito troppo. Sally ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Sally è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Sally cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido e vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Ma forse Sally è proprio questo il senso, il senso del tuo vagare. Forse alla fine ci si deve sentire davvero un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio, per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento come se fosse l'ultimo. Per la strada leggera, ormai è sera, si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni, però un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa, forse Forse qualcosa si è salvato. Forse non è stato poi tutto sbagliato. Forse era giusto così. Che fuori piove, che bel rumore. Bene, chiudiamo anche la rubrica dei solisti, che non ci chiederai, Iron Man, c'ha anche la sigla di chiusura. Un'altra. Riviva, tornate insieme, vi ricordate di quell'epoca che fu. Riviva, non vi conviene una carriera da Renzulli e da Perù. La scena del musicale si è impoverita senza dubbio alcuno. Ricordate quanti io temo non ritornino già mai. E il toro loco ci piace poco. L'oro e la seta nella stanzetta un po' scarseggiano. Sarà capitato anche Beatles, Beatles, Beatles di avere un casino in famiglia. La nippona che il gruppo scompiglia è quella famigerata. Oh no, oh no, oh no, di te il complesso ha paura. Oh no, oh no, oh no, meritavi una doccia scura. Doppio manager, doppio camerino, doppio catering, doppio ufficio stampa, doppio ingresso, molto luminoso, libero subito, instabile signorile. Visite in loco, servono a poco, l'oro e la seta nella stanzetta. Non ci son più e non c'è bomba bumeranga, non c'è iere troma rumba, dai maremma buhaiola un fate i grulli, dai Piero fai la pace con Renzulli, dai Diego fai la pace con Perù. Riviva, tornate insieme, vi ricordate di quell'epoca che fu. Riviva, non vi conviene una carriera da Renzulli e da Perù. L'IFIVA non vi conviene. La scena del musicale si è impoverita fin dal vostro scisma. Rivogliamo i vostri speriamo di sentirne sempre più. La scena del musicale si è impoverita all'incontrario. Piange, piange quell'uomo chiamato Cavallo, mentre appeso coi ganci nel petto come quello del famoso film. Per dire che Pierino poi con la band c'è tornato anche grazie a queste pressioni. E così sarà per ogni grande artista che andremo a scomodare nella rubrica Solisti, caro Iron Man. Solisti su Radio Forte. Bene, siamo in chiusura, la maestra è andata via. Cosa ci rimane? Non possiamo esimerci anche questa settimana dall'avere un ospite musicale. Sì? Un musicista caro al Forte e a me. Devo collegare il soppalco. E anche lui ha un nome e una sigla. Meno male. Thank you. questo introduce Sax and the City, il momento latino, e comunque notiamo che cioè prendiamo le toppe insieme, siamo gemelli di toppa. Ti voglio bene, la rifacciamo così solo perché come se fosse una prova. Qua. Sax and anche City. Molto City. Sax. Caro Iron Man. Peppino. Ciao Peppino. Bene Peppino, non vorremmo dare impressione di eccessiva allegria. Credo che questo sia il momento del pezzo per lasciarci. Un pezzo per lasciarci. Dopo tanto tempo ci rincontriamo. Io sono il mastro di chiavi. E io sono il guardia di porta. Suono bar and Sax and the City. A tradimento. Caramba, che sorpresa. Hancock e Marsalis mi spicciano casa. Le spugno. Change your heart. Look around you. E comunque ammettono l'uovo, mi garba di morto. Va bene? Va bene. Change your heart. It will astound you. Like the sunshine. Everybody's getting less sometime. Everybody's getting less sometime. Everybody's getting less sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Autogestiti presenta Scuola di Musica Forte. Corsi individuali di chitarra, canto, basso, pianoforte, batteria, tromba. Bene, non ci resta davvero che salutarci. Comunque, caro Iron Man, questa me la leggo al dito. Oh, La prossima volta te sfonno. State buoni, non litigate. Salutiamo Peppino. Sax and the City può dare di più. Peppino, vogliamo salutare a casa? Vabbè, comunque grazie a tutti e a tutte per aver sopportato questa piccola intrusione di musica inascoltabile. Salutiamo e ricordiamo, per chi si fosse perso questa bellissima puntata, che può ritrovarla in podcast sul sito fortepenestino.net, e che da oggi e per sempre 100 Celle Avengers si piazza al giovedì, alle 5 precise. All'ora del tè, ogni due settimane con una puntata nuova. Io non bevo il tè. In replica il venerdì e nella replicona domenicale. Replicona. Ciao Peppino. Ciao. Sigla. Sulla pista d'atterraggio c'era steso un uomo biondo, salutava e non lo vidi mai più. Poi nel cielo un'esplosione di un motore a compressione, dedicai l'intera vita per raggiungere l'uscita. Io sono un missile, ho sfiorato più di mille volte l'atmosfera ed ora sono inutile. Io sono inutile, ho sfiorato più di mille volte l'atmosfera ed ora sono un missile irraggiungibile. Sento sulla pista d'atterraggio, mi saluta un uomo, il mio papà. Dove sta la casa? Sto partendo per lo spazio, riuscirò a capire meglio il senso quando non sarò più qua. Più di mille volte l'atmosfera ed ora sono inutile, irraggiungibile.